Allah yukurni. Allora, dicevamo che insomma di questioni e conflitti all'interno anche dei luoghi lavorativi cominciano a essere numerosi. Ci sono tante insomma situazioni in piedi che purtroppo partono da condizioni di forte disagio che si vivono, e stare senza stipendio è chiaramente forse quella peggiore, no? È quello che sta accadendo a chi lavora al quotidiano Terra. Ci sono numerose persone che si trovano in questa situazione, oltre 6 mesi senza stipendio e accordi insomma che vengono bypassati senza scrupoli di nessun tipo. C'è un presidio che inizierà tra poco, ma insomma noi stiamo al telefono con una lavoratrice, Rossella. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Allora, il presidio inizierà tra poco. Riassumici meglio te la situazione che interessa questi lavoratori e lavoratrici. Sì, allora noi siamo qui a via del Porto Fluviale 9A, dove tra un'ora inizierà questo presidio di protesta e di denuncia nei confronti del quotidiano Terra. La situazione ha dell'insostenibile. Innanzitutto puntualizzo che il quotidiano Terra è organo della Federazione dei Verdi, ma è edito indipendentemente dai Verdi dalla società 112 SRL, di cui è titolare Luca Bonaccorsi, che è socio di maggioranza. Bonaccorsi è anche il direttore del quotidiano Terra. Ecco, la situazione è questa: noi da 6 mesi non riceviamo lo stipendio. L'azienda ha sottoscritto un accordo per la stabilizzazione dei precari solo 2 settimane fa. L'accordo si sarebbe dovuto concludere entro un tempo limite, che era quello del 31 ottobre, ma l'azienda non si è presentata. Ha prima rimandato l'appuntamento da venerdì scorso a lunedì successivo, e poi, senza avvisare nessuno, non si è presentata alla firma dei contratti per la stabilizzazione dei precari. Questa firma avrebbe potuto in qualche modo aiutare lo stato economico disastroso in cui a quanto pare versa l'azienda, perché stabilizzando i precari la 112 SRL avrebbe potuto avere accesso ad alcuni fondi previsti per questo tipo di operazione, e saremmo potuti nuovamente entrare in solidarietà e quindi abbattere del 50% il costo del lavoro. La 112 SRL però non ha ottemperato agli accordi presi, violando qualsiasi norma prevista da questo accordo sindacale che, ricordo, era stato alla fine siglato per interrompere uno sciopero che i lavoratori di Terra portavano avanti da circa 9 giorni, perché avevamo approvato prima un pacchetto di 4 giorni di sciopero, poi di fronte a nessun tipo di azioni né comunicazioni dal parte dell'azienda eravamo andati oltre, arrivando a 9 giorni di sciopero totale. La situazione è gravissima, è gravissimo l'atteggiamento dell'azienda, che non si preoccupa di lasciare per strada tutti i lavoratori, che non paga, ripeto, da 6 mesi, dal mese di aprile. L'ultimo stipendio che noi abbiamo ricevuto è il mese di aprile. E c'è una puntualizzazione da fare, che è questa. L'azienda Terra nasce nel 2009, nel 2009 va in edicola ad aprile del 2009, solo 5 mesi dopo si presentano i primi problemi economici e finanziari. Ricordiamo che Terra è titolare di un finanziamento pubblico di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Noi ci chiediamo quei soldi dove sono andati a finire, perché la tipografia non viene pagata, i redattori non vengono pagati, i collaboratori non vengono pagati, i poligrafici non vengono pagati, nessuno viene pagato, e l'azienda continua ad andare avanti impunita. Ora, io non so dove sono finiti i soldi, quello che so è che non ci entrano nelle tasche a noi lavoratori, che ne avremmo diritto da diverso tempo. Sarà sicuramente la magistratura ad accertare dove sono andati a finire questi soldi. Ora, la cosa che ci tenevo a raccontarvi in particolare maniera era una questione che riguarda la solidarietà. Allora, vi dicevo, ad aprile la testata nasce, cinque mesi dopo ci viene prospettata l'esigenza di dover necessariamente entrare in solidarietà. Solidarietà è uno stato, diciamo, di crisi in cui l'INPGI, che è il nostro istituto di previdenza, eroga il 50% del nostro stipendio all'azienda per evitare il licenziamento dei lavoratori. Quindi tutti i mesi l'INPGI erogava questo stipendio, questo contributo, questo 50%. Il mese di maggio rientra, che è uno degli stipendi che noi non abbiamo preso, rientra in quei mesi in cui l'INPS gli ha erogato il contributo e l'azienda lo ha evidentemente trattenuto perché a noi non ci è arrivato. C'è anche da dire un'altra cosa: durante tutto il periodo di solidarietà i lavoratori dovrebbero lavorare la metà del tempo previsto, e questo almeno quello che prevede l'accordo con il sindacato. Noi siamo stati costretti, vi faccio presente che siamo, diciamo, come redattori siamo 8 precari su 9, gli unici ad avere un contratto a tempo indeterminato sono i vice direttori, i direttori, insomma le persone che fanno parte della direzione di questo giornale. Siamo stati costretti a lavorare oltre l'orario di lavoro tutti i giorni, e il giorno in cui era previsto diciamo il riposo settimanale siamo stati anche quello costretti a lavorare. Ci troviamo quindi di fronte a una situazione gravissima dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, che vengono tutte le volte violati. Le relazioni con il sindacato e con i rappresentanti dei lavoratori, di cui io sono una, ci siamo io e un altro lavoratore, non vengono assolutamente rispettati. L'articolo 34 del contratto nazionale del lavoro, che prevede il rispetto di tutta una serie di norme e la partecipazione dei lavoratori al progetto dell'azienda attraverso il coinvolgimento del CDR, non è stato mai rispettato. Ci troviamo di fronte a un giornale che pratica un'ecologia, che razzola, diciamo, pratica un'ecologia nel senso si definisce come il primo quotidiano ecologista italiano, e poi è questa l'ecologia delle relazioni umane che pratica al suo interno. Io questa mattina sono arrivata in redazione, la porta era chiusa, ci sono altri lavoratori con cui noi abbiamo la fede, che noi siamo al primo piano e loro sono al piano inferiore, al piano nel seminterrato, a cui erano state date disposizioni di non farci entrare. Quindi noi ci troviamo di fronte a nessun tipo di comunicazione di fronte dell'azienda, alle pubblicazioni che attualmente sono cessate da un giorno all'altro e alla porta chiusa. Insomma, la situazione è davvero forte, uno stato di violazione totale, insomma, che evidentemente fa parte di un mondo dell'editoria che molto spesso si ammanta anche di una certa sensibilità sociale. Come tu dicevi, spesso queste situazioni sono poi a volte le peggiori da questo punto di vista, no? Anche perché poi certo, da superare c'è anche questo tipo di blocco, no? Quello comunque di evidentemente contrapporsi a ceti dirigenti che fanno del loro diciamo essere di sinistra un'aureola che tante volte, insomma, si fa fatica a superare. Senti, il presidio coinvolgerà soltanto i precari, oppure ci sono comunque attestati di solidarietà magari da colleghi di altre edizioni, di altri giornali, che magari vogliono testimoniare questo tipo di legame con voi, o non so, magari c'è la possibilità che il presidio sia più partecipato? Noi lo speriamo, è chiaro che abbiamo mandato comunicazione di quello che stava succedendo non solo ai collaboratori ma anche a tutte le altre testate italiane, e alcuni attestati di solidarietà sono arrivati, ci hanno chiamato dal Fatto, ci hanno chiamato dalla Repubblica, i collaboratori che lavorano per il quotidiano Terra, per la 112 SRL di cui è socio di maggioranza Buonaccorsi e che non sono mai stati pagati, ci hanno scritto delle lettere che noi oggi leggeremo al presidio, lettere in cui denunciano una situazione che è forse anche peggiore di noi che lavoravamo all'interno del giornale, perché si parla di gente a cui è stato fatto un contratto e che non ha ricevuto uno stipendio, diciamo, da 2 anni, nonostante continuino a inviare articoli e a partecipare alla fattura di questo giornale. Noi speriamo, insomma, che questo presidio sia partecipato. Metteremo in campo tutta una serie di iniziative per rendere pubblica questa violazione di diritti, questa situazione che ha dell'inaccettabile, e speriamo che in qualche modo si risolva. Oggi siamo qui. Quali sono le vostre richieste, a partire chiaramente dal recuperare tutto il pregresso in termini salariali? Le nostre richieste sono quelle del rispetto degli accordi stipulati con il sindacato il 12 ottobre. Quell'accordo prevedeva la stabilizzazione dei precari in quella sede l'azienda ha accettato di stabilizzare i precari, da quell'accordo doveva discendere la firma che fortunatamente due giorni fa non è avvenuta, l'azienda non si è presentata senza dare nessun tipo di comunicazione ai lavoratori. Noi vogliamo, chiediamo e in qualche senso pretendiamo che l'azienda, la 112 patrocinata da Luca Bonaccorsi, stia agli accordi che ha preso, che venga mantenuta la parola, che i precari vengano stabilizzati, perché sono i precari l'anima di questo giornale, sono i lavoratori che hanno fatto sì che Terra potesse uscire giorno dopo giorno, potesse andare in edicola. E anche a fronte dell'ipotesi di una cassa integrazione che è stata paventata più volte, abbiamo la necessità di essere stabilizzati, perché in caso alternativo il giornale chiude e noi rimaniamo per strada. Va bene, Rossella, sei stata esauriente in questa tua ricostruzione. Speriamo che questo presidio possa già fornire delle risposte riguardo le aspettative che giustamente i tuoi colleghi e tu stessa riponi, insomma, nella possibilità appunto di stabilizzare questi rapporti di lavoro e riavere i soldi che vi spettano. Sicuramente, insomma, ci faremo risentire anche per vedere come è andato il presidio, così aggiorniamo la situazione per stasera, va bene? Va benissimo, vi ringrazio tanto, ciao a tutti e a tutti e buona giornata. Ciao. Se avete il tempo fate un salto al presidio. D'accordo, ciao. Ciao ciao.